Sono una bomba, liricalmente ancora attivo. Faccio le scintille quando agisco a metodo impulsivo. Vi brucio il culo a tutti quanti e fate fumo, perché spengo le braccia con la tempesta che esce quando scrivo. Ma è stato schiavo, forse solamente schivo, nei confronti di chi poi sostanzialmente fa soltanto schifo. Che ti dico, non darmi del cattivo, se tu paradossalmente ti rispecchi, specie quando rimo. Dimostra quanto vali sopra i quattro quarti. Primo te lo spiegano, poi dicono che cambi. Prendi carta e penna adesso, ma non darti al commerciale. Non so che cazzo farò, ma smettetela di parlare. Spacco sulla strumentale assieme alle due menti. Pompati sta roba che c'è il master agli impianti. Questo è un vaffanculo, i professori che mi dicono che con la musica non spaccherò e non andrò avanti. Questa è una passione, religione, determinazione. Sì, ma soprattutto metodo di comunicazione. Gli altri rapper me li mangio a colazione. Cari stronzi, nuova scuola, ascoltate la lezione. Contenti noi, contenti tutti. Se poi non vuoi, fai come tutti. Levati da qui, oh, non sei come me. Levati da qui, oh, non sei come me. Vivo, scrivo, mi sposto da qui. E tutti gli altri possono andare a morire. Faccio tutto il possibile, e stai sopra il tuo limite. Ridi te che non ci sei perché è una faccia orribile. Più brutto di Gattuso e più ignorante di Giurato. Ho passato gli anni chiuso in stanza, giù assieme interrato. Perché con la musica mi sentivo diverso, anche adesso scrivo e sto in pace con me stesso. Colpo di classe, fra chiamami Pelé. Nella foto di classe sono quello che non c'è. Mi scrivi online, tu di lui ne fai tre. Dopo ritorni, è meglio lui di te. Quindi che cosa inventi? Quindi se non ti offendi è meglio che ti riprendi. E quindi chiama di precchi. Io sono stanco dei vostri batti vecchi. Fate a gara per starmi sul cazzo in parecchi. Parlo in generale ma poi in fondo ti rispecchi. Conosci tutti ma neanche uno che ti rispetti. Contenti noi, contenti tutti. Se poi non vuoi, fai come tutti. Levati da qui, non sei come me. Levati da qui, non sei come me. Vivo, scrivo, mi sposto da qui. E tutti gli altri possono andare a morire. Che cosa capisce questa gente? Niente. Voti come barzellette poco divertenti. Parlate, parlate, io non sento niente. Cambiate vestiti, siete poco differenti. Scendo sulla terra e porto il male anticristo. Prendo per la gola gli invidiosi rap fisco. Rap cisto, dentro e parli del tuo disco. Ma il fatto è che il tuo disco non l'ho ancora visto. Amici, amici, poi ti fottono la bici. Dici 17 anni in testa, più rime che cicatrici. Studiate tanto e li chiamate sacrifici, per poi diventare solo fotocopie negli uffici. Metà della mia città che mi dà la caccia. Avevo per dimenticare, quindi dopo ogni tua traccia. Ho le rime che mi girano per casa fra 13. Vieni qui in via, vi distruggo numero 13. Contenti noi, contenti tutti. Se poi non vuoi, fai come tutti. Levati da qui, non sei come me. Levati da qui, non sei come me. Vivo, scrivo, mi sposto da qui. E tutti gli altri possono andare a morire. Contenti noi, contenti tutti. Se poi non vuoi, fai come tutti. Levati da qui, tu non sei come me. Levati da qui, tu non sei come me. Vivo, scrivo, mi sposto da qui. E tutti gli altri possono andare a morire.